I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, bentornate, bentornate e ben ritrovate a tutte voi. Siamo Caterina e Pina del coordinamento Lesbiche Romane e quella che state ascoltando è la trasmissione numero 188 che segna la riapertura della nostra collaborazione con Radio Onda Rossa. Questa è la prima trasmissione, dicevo, dopo la riapertura estiva. Purtroppo quest'estate è stata segnata da accadimenti molto tristi e da noi anche molto noti che si sono succeduti con una frequenza direi quasi allarmante e stiamo parlando chiaramente della violenza sulle donne. Molto è stato detto e commentato dai giornali, tutto ciò ci induce in una prossima trasmissione ad approfondire in maniera un pochettino più dettagliata e a sviscerare in tutti i suoi aspetti questo argomento. Oggi invece per questa riapertura vogliamo iniziare da qualcosa di positivo, così anche se un po' per scaramanzia, insomma, iniziare con qualcosa di bello ci dà ancora più forza. Vediamo allora di cosa parleremo oggi. Il 23 settembre scorso, presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma, il nostro gruppo, il CLR, il Coordinamento Lesbiche Romane, insieme a tutto il Centro Femminista Separatista, ha dato vita ad un'iniziativa aderendo alla richiesta avanzata dallo staff del Festival Internazionale del Cinema di Bologna Immaginaria. A tal proposito vi faremo un breve resoconto di questa iniziativa e vi faremo ascoltare un'intervista che abbiamo fatto alla presidente dell'associazione che cura il festival e anche ad altre due collaboratrici facenti parte dello staff del festival stesso. Allora, adesso facciamo una breve pausa musicale e ad ascoltiamo un brano che ho scelto apposta proprio perché in questa puntata si parlerà di immaginaria. E si tratta di Your Little Secret di Melissa Etheridge. Io ricordo che questo brano ha fatto da colonna sonora ad una serata inaugurale di un festival di immaginaria di qualche anno fa. La voce dirompente di Melissa Etheridge ha reso ancora più emozionante l'avvio di quel festival. E questa sera ve la riproponiamo con la speranza che le stesse nostre emozioni provate allora possano accompagnare anche voi questa sera e ci auguriamo per il prossimo Festival di Immaginaria. Quindi buon ascolto a tutte. Leaving on a vibe. Allora, mentre la musica di Melissa Etheridge andava, ci è arrivato il primo messaggio della serata, quindi ringraziamo Joe di averci mandato e colgo l'occasione per ricordare il nostro numero sul quale mandare gli sms, che è 338-4146-682. Vi ricordo che avete la possibilità di ascoltarci in diretta andando sul sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure sul nostro sito ufficiale, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Allora, vi ricordo che potete anche telefonarci qui in radio fino alle ore 22 allo 06 49 17 50 e vi ricordo ancora il nostro numero per i messaggini, che amiamo tantissimo, è 338-4146-682. Passo la parola a Pina. Ciao, buonasera a tutte. Spero che vada bene, insomma mi fa piacere ritrovarvi qui tutte quante. E come poc'anzi Caterina aveva anticipato, vi dico che parleremo dell'OSOS lanciato da Immaginaria. Infatti il 23 settembre scorso, presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma, il CLR ed il CFS hanno promosso un'iniziativa costituita da un dibattito cui hanno partecipato le donne di Immaginaria, seguito poi da una proiezione di alcuni corti che appartengono sempre alla collezione di Immaginaria. E come forse alcune di voi già conoscono, da qualche anno il Festival del Cinema Lesbico di Bologna vive una fase un po' asfittica. Le ragioni di questa situazione sono rintracciabili sicuramente nei costi elevatissimi che ogni anno si concretizzano per la realizzazione, contestualmente alla graduale e purtroppo progressiva assenza di finanziamenti, nonché da un mancato ricambio generazionale che dovrebbe essere la naturale conseguenza di tutte le iniziative politico-culturali delle donne. Ciò che a noi interessa, però, essendo state anche personalmente da sempre fruitrici di questo evento, è il fatto che il festival continui ad andare avanti. Ma perché ciò avvenga occorre uno sforzo da parte di tutte le donne che nel corso di questi anni, attraverso le varie edizioni che si sono succedute, hanno compreso l'importanza di questo evento e lo hanno anche sostenuto con la loro partecipazione. Sforzo però che deve passare anche attraverso il passaparola e la capillare informazione tra le giovani. Questo perché, vi starete domandando? Perché in tutto il mondo ci sono complessivamente 2.478 festival. Festival di tutti i generi, di tutte le qualità e con un'infinità di sfaccettature. Tra questi 2.478 festival però che ogni anno si svolgono nel mondo, quelli gay sono circa 150. Ed ecco dal nostro punto di vista la parte sensazionale. Quelli lesbici, cioè quelli specifici, in tutto il mondo sono soltanto 3. E tra questi 3 c'è Immaginaria di Bologna. Gli altri 2, uno si svolge a Parigi e si intitola Cinefable, l'altro è il Festival del Cinema Lesbico di Berlino. Come molte di voi già sapranno, Immaginaria si è svolta con regolarità per un certo numero di anni consecutivamente, grazie soprattutto alla caparbietà delle organizzatrici. Poi anche Immaginaria ha risentito delle regole non scritte del patriarcato, che tentano sempre di annientare gli spazi per donne. Queste regole non scritte rendono prioritarie cose che poco hanno a che fare con le donne in genere, figuriamoci poi con le lesbiche. Per cui ci sono stati patrocini, finanziamenti e sovvenzioni, prima concessi e poi ritirati. Ad aggravare ulteriormente la situazione, una stanchezza naturale delle donne militanti che vi lavorano, costrette molto spesso a sacrificare la propria vita privata per la riuscita del festival. Immaginari è inutile ripeterlo, è il Festival Internazionale del Cinema delle Donne, ribelli, lesbiche e centriche, che diffonde il cinema indipendente, lesbico e femminista di tutto il mondo. La sua 12ª edizione si è svolta, come sapete, nel 2005 e purtroppo per noi nel 2006 non vedrà luce. Peccato, perché sarebbe importante poter rivivere quei giorni magici, immersa in un'atmosfera tutta al femminile, nei quali si ha la percezione netta di essere tra donne, con donne, per donne. Immaginaria è uno sguardo che ci permette ogni volta di vivere e sentire sulla nostra pelle le emozioni trasmesse dalla visione delle pellicole, emozioni di dolcezza infinita o di rabbia ed impotenza, di gioia o di dolore, rappresentazione di una nuda e cruda realtà di vite molto spesso distanti nello spazio da noi, ma molto vicine per esperienza e vissuto. Questi motivi per i quali il Centro Femminista Separatista ha organizzato l'evento del 23 a sostegno del Festival di Immaginaria. E la cosa bella è che a questa iniziativa hanno partecipato più di 120 donne. È a loro che va un grazie particolare, perché queste donne hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa attraverso la loro festosa partecipazione, l'acquisto dei biglietti della pesca lesbica strepitosa, vinci sempre qualche cosa, il consumo dei pasti da noi preparati e delle bevande disponibili. Dicevamo quindi che in questo modo il CFS è stato in grado di offrire un contributo di ben 650 euro alle donne di Bologna. Sappiamo che è ben poca cosa rispetto ai costi effettivi, ma noi comunque ci sentiamo orgogliose di quello che siamo riuscite a fare. Per concludere vogliamo leggere l'acronimo che hanno preparato le bolognesi, così come ci piace appellarle scherzosamente. Il loro SOS si intitolava Immaginaria Tour e da ogni lettera di questo titolo hanno ricavato le seguenti frasi: I come impegno totale, M come movimento lesbico, M ancora come motore volontario, A come azione radicale, G come garanzia 12 anni, I come intervento ora, N come natura collettiva, A come aspettativa alta, R rischio estremo, I come incassa zero, aiuto, troviamoci, organizziamoci, uniamoci, rivoluzioniamoci. Tutte noi ci auguriamo, e anche con il piccolo contributo che noi siamo riusciti a dare a Immaginaria, che Immaginaria possa tornare. Ed allora appuntamento al prossimo Festival di Immaginaria a Bologna. Auguriamoci presto. Ora però ascoltiamo insieme un brano delle Kick, La Luna, dal titolo Dark Street. Anche questo gruppo musicale si è esibito durante uno dei 12 precedenti Festival di Immaginaria. Thank you. when he catches you, when he grabs you from behind. Feel frightened, lose your voice, your body becomes still. Why the spines instead of love? There's something which can help. This is just inside yourself. You feel this anger, you've got your brain, you've got your hands on your feet. We've got a veramente stupenda la voce di questa cantante. Allora, come vi avevamo preannunciato all'inizio, adesso mandiamo in onda la, l'intervista che abbiamo fatto allo staff di Immaginaria. Siamo con le compagne di Immaginaria, abbiamo già fatto un'iniziativa rispondendo a quello che loro hanno chiamato l'SOS Immaginaria, e quindi a loro chiediamo: che cosa è per voi l'SOS Immaginaria e perché avete lanciato questo, questa richiesta di aiuto all'interno del mondo delle donne femministe, delle donne lesbiche? Allora, dunque, l'idea di fare un tour di Immaginaria è venuta per un, diciamo, un incidente di percorso che ha prodotto comunque delle positività, ovvero nell'ultima edizione che abbiamo fatto nel novembre del 2005 ci è venuto meno all'ultimo momento, veramente un mese prima del festival, il finanziamento del Comune di Bologna e poi anche del Ministero dello Spettacolo, per cui diciamo, abbiamo chiuso la 12ª edizione con un buco di quasi 40 la 12ª edizione con un buco di quasi 40.000 euro, e quindi ovviamente questo ci ha imposto di fermarci e a questo punto noi ci siamo trovate un po' di fronte a un bivio. Scusa Marina, ti interrompo solo un secondo per chiederti una specificazione maggiore. Sì. Cioè, a voi è venuto meno un finanziamento che vi era stato promesso da una giunta? Chiederti una specificazione maggiore. Sì. Cioè, a voi è venuto meno un finanziamento che vi era stato promesso da una giunta di centro-sinistra? Specificazione maggiore. Sì. Cioè, a voi è venuto... Scusate un attimo, c'è un problema tecnico con il CD della registrazione, provo a cambiare un attimo sull'altro per vedere se, se lo sente meglio, abbiate pazienza un secondo. È venuta per un, diciamo, un incidente di percorso. Proviamo a riascoltarlo un pezzettino, abbiate pazienza. Che ha prodotto comunque delle positività, ovvero nell'ultima edizione che abbiamo fatto nel novembre del 2005 ci è venuto meno all'ultimo momento, veramente un mese prima del festival, il finanziamento del Comune di Bologna e poi anche del Ministero dello Spettacolo, per cui diciamo, abbiamo chiuso la 12ª edizione con un buco di quasi 40.000 euro, e quindi ovviamente questo ci ha imposto di fermarci e a questo punto noi ci siamo trovate un po' di fronte a un bivio. Scusa Marina, ti interrompo solo un secondo per chiederti una specificazione maggiore. Sì. Cioè, a voi è venuto meno un finanziamento che vi era stato promesso da una giunta di centro-sinistra? Sì. È così? Esatto. Noi già quasi un anno prima dell'edizione ultima di Immaginaria avevamo avuto rapporti con la giunta di Cofferati. Sì. Una rimozione tristemente purtroppo sì, il quale ci aveva promesso maggiori appoggi rispetto alle giunte di sinistra precedenti, quindi salto a pie pari Guazzaloca perché noi non ci siamo mai relazionate alla giunta di destra e questo appoggio era stato proprio quantificato nella misura di 25.000 euro più diciamo in qualche modo la gratuità del cinema Lumière, che è il cinema che appartiene poi al comune di Bologna. Un mese prima del festival, senza neanche molte spiegazioni, semplicemente soldi non ce ne sono più, quindi si sono stati negati questi soldi, in più come dicevo anche il Ministero dello Spettacolo diciamo, non ci ha più dato i 7.500 euro che da anni oramai percepivamo. E quindi dobbiamo comunque pensare in positivo, abbiamo pensato che era diciamo questo un momento in cui noi ci potevamo fermare e fare alcune riflessioni di diverso genere. La prima che si pone ovviamente è se vogliamo continuare e andare avanti con il festival, in che modo pensiamo di finanziarlo. È chiaro che adesso, in questo momento, e per forze, e anche proprio perché è un momento storico, io credo, particolare, dove tutte le iniziative delle donne e delle lesbiche che si autofinanziano fanno sempre più fatica ad andare avanti, è chiaro che bisogna pensare altre forme di finanziamento, forme che noi abbiamo sempre un po' così mai approfondito, perché la nostra è una cultura di movimento e di autofinanziamento. E quindi diciamo per noi urge questa riflessione, ma poi soprattutto quello che a noi ci sembra più importante ancora fare è fermarci per parlare con le donne e le lesbiche che da sempre sono venute al festival e quelle che non sono mai venute. Per cui abbiamo pensato questa cosa che a noi è piaciuta tanto, di fare il tour di Immaginaria, quindi andare in tutte le città dove i gruppi come il coordinamento lesbiche romane ci hanno ospitato, e il centro femminista separatista sì, ci hanno ospitato, e quelle città dove diciamo son venute da sempre donne al festival, per parlare del festival, intanto spiegare che cosa vuol dire organizzare Immaginaria, ma poi anche raccogliere suggerimenti e assolutamente critiche, anche malumori, malcontenti, perché noi oltretutto, prese dalla foga di organizzare questo evento che per noi è veramente ingombrante e tanto, e poi anche per passione cerchiamo comunque di farlo perfetto, siamo prese da questo ingranaggio che tante volte ci ha allontanate un po' dal contatto con le festivaliere stesse. Quindi il tour nasce per questo. Senti, quindi questo che c'è stato ieri a Roma non era chiaramente la prima tappa del vostro tour, ne avete fatte altre. Io ho assistito al dibattito che ha seguito dopo la vostra mini presentazione del vostro festival e volevo sapere se le domande che apparentemente avevano una immagine un po' critica, e poi le domande sono sempre più o meno le stesse, se si sono ripetute o se è una particolarità di Roma, perché le domande che sono venute sono: perché non spostate immaginari a Roma, perché non lo fate più spesso, perché i prezzi sono così alti, che sono poi domande sicuramente legittime, ma legittime per chi magari non è addentro alla strutturazione e alla composizione del festival. Quindi volevo che magari da una parte mi dicessi se è soltanto una tipologia di domanda specifica di Roma o se è una domanda che ti è stata o vi è stata rivolta più spesso, e magari cogliere l'occasione per dare una spiegazione del perché queste cose non... Sì, no, diciamo che quella di Roma è stata la quarta tappa. Abbiamo iniziato in Toscana a Torre del Lago in luglio questo. E poi siamo state al campo lesbico di Agape e poi siamo state anche a Terra di Lei in agosto. E, diciamo, le domande sono state sempre quelle, legittime peraltro. Allora, prima tra tutte, questa famosa questione del cambio del nome del festival, no? Che, forse Marina è bene, o io, Debora, o Ornella che sono qui con noi. È bene che specifichiate un po' meglio la questione del cambio del nome, perché come si chiamava prima e come avete chiamato, lo avete chiamato nell'ultima edizione, e quale percorso avete fatto in questo senso, in questa direzione. Allora, Immaginaria, la sua nascita è nata proprio come Immaginaria Festival del Cinema Lesbico. Per noi ovviamente questo era un atto di visibilità, è anche provocatorio, no? Sì, di rottura. E con questo nome altisonante, tremendo, abbiamo ottenuto finanziamenti e ascolto da parte delle istituzioni. In anni certo in cui c'era un'apertura anche diversa. Poi noi siamo lesbiche che vengono dal movimento femminista e quindi abbiamo fatto un certo percorso, siamo legate comunque alla storia del movimento delle donne, infatti la programmazione stessa del festival non è assolutamente come normalmente è nel festival gay, solo a tematica lesbica, ma ha sempre mantenuto una parte anche importante di programmazione a tematica femminista, o comunque ha sempre presentato immagini di donne forti, vincenti il più possibile, comunque forti. E quindi ha comunque attraversato, diciamo, direi l'idea di genere. Assolutamente sì. Genere femminile, cioè intendendo per le donne. Tutte. Noi apparteniamo, noi lesbiche apparteniamo al genere femminile, quindi. Certo. Diciamo che man mano abbiamo avuto un'evoluzione personale anche, diciamo, abbastanza significativa e sofferta, perché a un certo punto abbiamo cominciato a sentirci sempre più distanti, e questo ripeto con sofferenza, da una certa politica lesbica. Abbiamo fatto fatica un po' a sentirci dentro, diciamo, a un modo di fare politica che a noi sembra abbia come obiettivo piuttosto quello di integrarsi, di armonizzarsi. Omologazione? Sì, sì. Lo vogliamo dire? Non lo stavo dicendo in maniera soft. Sì, sono molto meno soft che io, vabbè. E questa non è la nostra storia. La nostra, cioè, intendi per esempio tutto il percorso di pacificazione che alcune donne fanno, alcune lesbiche fanno, cercando un sistema di dato. Rincorrere il sistema dato, e quindi per esempio i PAX, per capirci. Per esempio. Un esempio qualsiasi. Qualsiasi a caso. Uno a caso. Certo. E niente, la nostra storia invece è diversa. La nostra storia è di rottura. Noi abbiamo buttato all'aria, per esempio, il matrimonio come un'istituzione che ha sempre oppresso le donne. E io credo che anche il matrimonio tra lesbiche sia oppressivo, perché la struttura in sé patriarcale e oppressiva, che è così. E quindi diciamo, abbiamo cominciato a sentire più forte il richiamo di genere, fondamentalmente, in un momento in cui presagivamo già un grosso flop dei referendum che ci sono stati lo scorso giugno sulla fecondazione assistita, in un momento in cui il problema della violenza sulle donne è nuovamente alla ribalta, sia per mano di maschi extracomunitari, sia per mano di maschi italiani nostri, diciamo, di casa. Diciamo soltanto che, come sempre succede, per mano di maschi, punto. Perché non... Infatti. E quindi, diciamo, per noi a un certo punto è stato importante cercare di differenziarci e di caratterizzare ancora meglio il nostro festival come un festival che mostra donne ribelli, lesbiche ed eccentriche, perché il fatto di essere lesbiche e non ribelli per noi non fa la differenza, e immaginaria non presenta queste donne. Siamo d'accordo. Assolutamente sì. Ecco, questo, diciamo che in effetti questo titolo, questo sottotitolo, perché immaginaria rimane immaginaria, non è stato subito colto, e questo a me ha fatto pensare che forse è necessario un momento di incontro per dircele queste cose. Certo, certo, anche perché se ricordo bene, nell'ambito del dibattito che vi ha visto protagoniste ieri sera durante l'iniziativa con le donne che sono affluite numerose, alcune perplessità venivano espresse forse dalle giovanissime che parlavano di eventuale appetibilità o non appetibilità, sì. Per esempio già inserita nel titolo del vostro festival, no? Quindi essere ribelli, essere lesbiche, essere eccentriche, forse per taluna, forse per le giovani, è veramente troppo distante dalla cosiddetta norma. Troppo forte di rottura. Mm-hmm. Infatti ieri l'hai sentita quella ragazza giovanissima, l'hai sentita, che lei diceva: ma così voi scoraggiate le donne che vogliono armonizzarsi con la società. Io vado d'accordo con mamma, con babbo, sono aperta, non ho problemi, non mi voglio scontrare perché sto bene così. Voglio essere accettata, punto. L'accettazione ha ammazzato tante persone, le lesbiche sicuramente, quindi... Certo. No, ma anche perché l'accettazione significa, o la tolleranza, significano stare all'interno di un sistema che mi contempla in qualche misura, mentre noi... Non mi riconosce però. Ma non mi riconosce, esatto. O comunque non, cioè, all'interno del quale non sto, non ci sono, non sono prevista, certo. Che è ancora di più. E invece noi la pensiamo un po' come Valerie Solanas, no? Che dice che in questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società nulla, proprio nulla, prevede le donne. E noi pensiamo che Valerie Solanas abbia detto delle cose, nell'ambito del suo pamphlet di Scum, abbia detto delle cose non solo significative, dirompenti, illuminanti. Esatto. E quindi che noi vogliamo riprendere per la provocatività che contempla all'interno, e che è una sfida che lanciamo alle altre donne, di certo non agli uomini non può interessare. Assolutamente. Una sfida. Senti, e poi per sottolineare ancora, proprio per quanto riguarda la specificità delle donne, no? Ieri avete mostrato una diapositiva secondo me molto significativa, nel quale facevate un sondaggio su tutti i festival, no? E ci stava uno che praticamente nominava in totale nel mondo quanti festival c'erano, che erano di tutti i generi, quanti erano gay e quanti erano lesbici. Mi dispiace, non vi chiedo le cifre esatte, preciso, ma almeno sottolineare la proporzione. Per esempio, tanti facciamo a scuola, facciamo tanti, medi e pochi, no? Quanti festival ci sono nel mondo? 2478. Ok, grande Ornella. Quanti sono gay? Gay sono intorno ai 150. E questa è la voce di Deborah. E lesbici? Lesbici tre. Li vogliamo nominare questi tre, quali sono? Sì, sono Immaginaria, che comunque, appunto, è Cinefabla, il Festival del Cinema Lesbico di Parigi, e il Festival del Cinema Lesbico di Berlino. sono specifici, quindi io volevo sottolinearla questa cosa, perché un patrimonio del genere secondo me non, dobbiamo fare in modo che non vada perso, capito? Proprio assolutamente no. E guarda, da parte nostra ovviamente c'è una grande tenacia nel tentare di scongiurare questo pericolo che è assolutamente reale e mai stato tanto vicino, ripeto, e questo va, bisogna dirlo assolutamente, grazie alla giunta comunale di sinistra di Cofferati, assolutamente, perché se i fondi ci fossero arrivati così come ci erano stati promessi, noi i conti li sappiamo fare, li abbiamo saputi fare per 12 anni, esatto, avremmo pareggiato, ok? Ecco. Quindi mai come quest'anno è proprio pericolosissima la situazione. Noi l'impegno di scongiurare questa morte così dolorosa per noi ce lo mettiamo. È chiaro che dobbiamo ripensare tutto, come dicevo prima, non può essere più il volontariato, l'autofinanziamento, dobbiamo trovare modalità, ma io dico anche proprio imprenditoriali. Diverse. Senti, quindi questo significa che nel 2006 purtroppo non potremo venire a Bologna? No. No, a Bologna per goderci il festival, noi che siamo delle fruitrici incallite ormai. Veterane. Esatto, quindi per ora l'appuntamento, se abbiamo capito bene, è per il prossimo anno. Sì. Con tutti, ovviamente, il distinguo che voi avete espresso durante l'intervista che ci avete rilasciato. Sì. E quindi noi vi diciamo che potete, a voi ascoltatrici, andare a vedere per informazioni maggiori il sito di Immaginaria, se Deborah lo vuoi dire, lo vuoi ripetere? Sì, www.immaginaria.org. E potete prendere contatti con Immaginaria al indirizzo di posta elettronica che è? info@immaginaria.org. Perfetto. E quindi le nostre amiche e compagne di Immaginaria sono ovviamente aperte a consigli, critiche. Le critiche ovviamente ognuna di noi le accetta con le riserve, però se arrivano sono sempre comunque momenti di sconto. E salutiamo anche Pina che è arrivata in questo momento e che però vi chiediamo comunque di prestare attenzione a questo progetto, di prestare attenzione a questi accadimenti oggi affinché ci sia un dibattito al nostro interno, una spinta al nostro interno che ci permetta di dire anche quando una realtà deve finire, ma che lo decidiamo noi. Esatto. Arrivederci a tutte da Caterina, Lucilla, Marina, Deborah, Ornella. Ciao. Allora, quella che avete appena ascoltato era l'intervista che abbiamo fatto alle donne di Immaginaria. Adesso mandiamo un brano musicale di Norah Jones, il titolo è Don't Know Why. You by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Teardrops in my hand, my heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I don't know why I didn't call. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't call. My don't know why I didn't call. I don't know why I didn't. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane all'interno dello spazio autogestita femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Rammentiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo tutte le donne che ci hanno mandato un loro messaggio ed hanno continuato a scriverci rimanendo con noi anche durante l'estate. Se ci state ascoltando via internet invece ci farebbe piacere sapere da dove, ma potete anche darci soltanto un piccolissimo riscontro. Il più semplice è quello del trillino, basta far squillare il telefono di Radio Onda Rossa, che ricordiamo il numero è 06 49 17 50, una sola volta e poi riagganciare. Noi capiremo che ci siete perché qui in radio ogni volta che squilla il telefono si accende una luce verde sul mixer che sta a significare che qualcuno ci sta ascoltando e credeteci, è piacevolissimo sapere che ci siete. L'altro mezzo che avete è quello degli SMS, per cui ripetiamo il cellulare che è 338-4146-682. E ancora, se le cose che avete da dirci sono molte, potete inviarci un'email all'indirizzo di posta elettronica che è contatti@clrbp.it, oppure potete inviarci un fax allo 06-6864-201. Ma c'è anche chi non è informatizzata e quindi, per le amanti della carta, potete scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Ripetiamo ancora una volta il telefono della radio che è 06 49 17 50 ed il nostro cellulare sul quale inviare i messaggi che è 338 41 46 682. Allora, il tempo che abbiamo a disposizione sta per finire, vi volevo dire che questa musica di sottofondo ha un titolo significativo vista l'argomento della serata, si intitola Victory ed è di un gruppo di donne che fanno dei rifacimenti di musica classica e si chiamano le Bond. Allora, grazie per i trillini che state facendo e utilizziamo questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione per dare una notizia un po' triste. E l'abbiamo presa dal sito del gruppo lesbico Fuoricampo, che è www.fuoricampo.net, e prendiamo da loro in prestito alcune parole che Rosanna Fiocchetto e Lucky Mass hanno preparato per un omaggio a Tia Corinne, fotografa lesbica scomparsa il 27 agosto del 2006. Allora, Linda T. Corinne è stata la fotografa lesbica per eccellenza, la prima a rappresentare l'erotismo lesbico in tempi in cui il coming out era una rarità. Nata il 3 novembre del 43 in Florida, è morta il 27 agosto nell'Oregon a 62 anni per un cancro al fegato che le era stato diagnosticato in marzo. Artista militante, ha fotografato tutte le protagoniste, celebri e non, del movimento lesbico dagli anni 70 ad oggi negli Stati Uniti. Il suo Count Coloring Book del 75, dedicato alle vulve, fece scandalo per la sensualità delle sue immagini lesbiche sessualmente esplicite, realizzati con negativi solarizzati. Nelle sue opere, intensamente originali, ha integrato fotografia, stampa e pittura. Molte delle sue raccolte di foto sono tantissime, elencarle tutte sarebbe veramente difficile, spaziano dall'82, dell'89, nell'84, nel 90, sono veramente, veramente tantissime. Ma era anche molto eclettica, ha scritto anche romanzi, saggi, poesie. Le sue immagini sono state utilizzate da quasi tutte le riviste lesbiche e femministe. In un personal statement scritto poco prima di morire ha detto: «Credo nei rapporti a lungo termine, nei cani, nei gatti e nella natura». Il suo onore Monforce Media ha fondato il T.A. Corinne Prize for Lesbian Media Artist. Corinne ha lasciato i suoi manoscritti ed altri materiali alla biblioteca dell'Università dell'Oregon. Per una bella foto che l'ha resa famosa, pubblicata sulla copertina di Sinister Wisdom del 77, è riprodotta in poster e si può andare a vedere in dykestonewatchoffloor.com. Veramente molto, molto interessante. Ripeto, Fuori Campo gli ha dedicato una pagina molto, molto ampia. Da lì ci sono anche una serie di link che potete comunque andare a consultare. Era veramente, veramente molto brava. Lei cominciò a fotografare da giovanissima, subito dopo la laurea, però chiaramente era una persona molto scomoda. Pensate che anche ultimamente per esempio la coalizione per i valori tradizionali ha fatto circolare tra i membri del Senato un fascicolo di materiali che loro considerano pornografia e che mostra le fotografie di Corinne, no? Questo materiale l'avevano preso dalla biblioteca pubblica Gay and Lesbian Center di San Francisco. Corinne è esposto in mostre negli Stati Uniti dal 1965 ed è stata pubblicata nella stampa del Movimento delle Donne e altrove dal 1974. Le sue foto sono state usate per copertine di dischi, poster ed altre 50 copertine di libri della Niade Press. Allora, concludiamo questa puntata ascoltando un brano molto, molto leggero che è uscito qualche tempo fa. Sono le Tattoo con All About Us.